Decimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachì. Inferno, decimo canto. Ora sen va per un secreto calle tra il muro della terra e li martiri, lo mio maestro, e io dopo le spalle. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi a miei disiri. La gente che per li sepolcri giace, potrebbe si veder, già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. E quelli a me, tutti saran serrati quando di Josafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Però alla dimanda che mi faci, quincentro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cuor se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. O tosco che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio d'una dell'arche, però m'accostai, temendo, un poco più al duca mio. Ed el mi disse: «Volgiti, che fai? Vedi la farinata che s'è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai». Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el s'ergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca e pronte mi pinsere tra le sepolture a lui, dicendo: «Le parole tue sien conte». Com'io al piede la sua tomba fui, guardommi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: «Chi fuor li maggiori tuoi?» Io, ch'era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliel apersi, ond'ei levò le ciglia un poco in suso. Poi disse: «Fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per due fiate le dispersi. Sei fur cacciati e i tornar d'ogne parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte». Allor sorse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa, infino al mento, credo che s'era in ginocchi elevata. D'intorno mi guardò come talento avesse di veder s'altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: «Se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è? E perché non è teco?» E io a lui: «Da me stesso non vegno. Colui ch'attende là per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno». Le sue parole e il modo della pena m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: «Come? Dicesti elli ebbe? Non vivelli ancora? Non fiere gli occhi suoi lo dolce lume?» Quando s'accorse d'alcuna dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo, a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. E se continuando al primo detto: «S'elli han quell'arte», disse, «male appresa, ciò mi tormenta più più che questo letto. Ma non 50 volte fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio incontra miei in ciascuna sua legge? Ond'io a lui lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio. Poi ch'ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fu io sol, disse, né certo sanza cagion con gli altri sarei mosso, ma fu io solo là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza colui che la difesi a viso aperto. Deh, se riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. E il par che voi veggiate, se ben odo, dinanzi a quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiam come quei ch'ha mala luce, le cose, disse, che son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano o son, tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Allor, come di mia colpa compunto, dissi, or direte dunque a quel caduto che il suo nato è covivi ancor congiunto, e sì fui dianzi alla risposta muto, fatei saper che il fei perché pensava già nell'error che m'avete soluto. E già il maestro mio mi richiamava, per chi pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. Dissemi, qui con più di 1000 giaccio, qua dentro è il secondo Federico e il cardinale e degli altri mi taccio. Indi s'ascose e io inver l'antico poeta volsi i passi, ripensando a quel parlar che mi parea nimico. Elli si mosse e poi così andando mi disse, perché sei tu sì smarrito? E io li soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi quel ch'udito hai contra te, mi comandò quel saggio. E ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Appresso mosse a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo inver lo mezzo per un sentier ch'a una valle fiede, che infin lassù facea spiacer suo lezzo. Fine del 10° canto dell'Inferno.